America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Barack Obama ha annunciato ieri di voler autorizzare nuove trivellazioni ed esplorazioni lungo le coste americane e in certe zone dell'Alaska. Una svolta economica o una svolta politica? Ricostruiamo. Senator McCain does support this. The chant is drill baby drill. Trivella, baby, trivella era lo slogan di Sarah Palin, candidata alla vicepresidenza con John McCain. Trivellate per estrarre il petrolio. La proposta originaria era di George W. Bush, ma fu bloccato il presidente repubblicano dagli ambientalisti. E così McCain e la Palin saltarono sopra questo argomento caldissimo. Ricordo che alla convention repubblicana del 2008 in Minnesota questo slogan della Palin, appunto drill, baby drill, si trasformò in un evento mediatico nazionale, anche perché in quel baby drill detto da lei c'erano tutti i significati possibili. The only answer is drill, drill, drill. Drill we must, but it will take 10 years for one drop of oil to come out of any of the wells that are going to be gun to be drilled. In the meantime, we're all going to be in real trouble. Nel dibattito che vi abbiamo fatto ascoltare, il dibattito presidenziale, diciamo il dibattito fra i due vicepresidenti per la corsa alla Casa Bianca del 2008, Biden prendeva le distanze, ammetteva che forse certe trivellazioni potevano essere considerate, ma aveva dubbi sui tempi e sulla vera efficienza economica. Lo stesso faceva Obama, prendeva in giro McCain durante la sua campagna elettorale. Sentiamolo in uno dei suoi comizi. Somebody said, well, what can I do? What can individuals do? So I told them something simple. I said, you know what? You could inflate your tires to the proper levels, and that if everybody in America inflated their tires to the proper level, we would actually probably save more oil than all the oil that we get from John McCain drilling right below his feet there, wherever it is that he was gonna. Risparmiare energia gonfiando in modo ottimale gli pneumatici. Questa sua proposta fu naturalmente oggetto di presa in giro da parte dei repubblicani. Cominciarono a distribuire dei cappucci degli pneumatici per dare l'idea di quanto superficiale fosse questa proposta di Barack Obama. Ebbene, in questo comizio Barack Obama reagisce, dice: mi prendono in giro, però la verità è che per risolvere il problema energetico questa mia proposta servirà moltissimo, e comunque servirà molto più che la proposta di McCain per le trivellazioni. E dice: ma dov'è che vuole trivellare quel McCain, rovinando il nostro patrimonio naturale? Dunque Obama metteva addirittura l'efficienza del gonfiare gli pneumatici davanti alle trivellazioni, perché era un ambientalista convinto durante la campagna. Guai a danneggiare le coste dell'Alaska, guai a concedere diritti di trivellazione alle compagnie petrolifere lungo le coste orientali. Forse, diceva, nel tempo ci si potrà pensare, ma con forti limiti. Poi lo scorso settembre ci fu un piccolo movimento. Forse le trivellazioni potevano essere considerate, diceva, e lo confermò poi di nuovo durante il discorso sullo Stato dell'Unione in gennaio. E poi ieri l'annuncio. So today we're announcing the expansion of offshore oil and gas exploration. Bene, Obama annuncia dunque l'espansione delle esplorazioni offshore di petrolio e gas naturale, dove potrebbero esserci miliardi di barili di riserve. Nel suo annuncio cerca l'equilibrio tra la domanda interna di risorse energetiche e il bisogno di proteggere le risorse ambientali. Però, diciamolo, sono solo parole. Quel che conta è la svolta verso destra con cui Barack Obama si avvicina ai repubblicani, con cui strizza l'occhio ai grandi produttori di petrolio. L'energia, la dipendenza dal petrolio sono una questione di sicurezza nazionale. Dunque, in questa sua virata a destra, Obama corteggia i moderati repubblicani che premevano per questa sua iniziativa. Una forma di bipartitismo, quindi apprezzabile sotto un certo punto di vista, ma soprattutto l'ennesima dimostrazione di grande pragmatismo di Obama. Gli ambientalisti sono inferociti? Beh, pazienza. Let's move on. Guardiamo in avanti. We'll employ new technologies that reduce the impact of oil exploration. We'll protect areas that are vital to tourism, the environment, and our national security. Utilizzeremo nuove tecnologie che ridurranno l'impatto delle nostre esplorazioni per proteggere le aree di interesse turistico, l'ambiente, la sicurezza nazionale. Lo faremo non guidati da ideologie politiche, ma da prove scientifiche, dice Obama. Le esplorazioni e le trivellazioni saranno possibili, secondo il suo piano, nel Golfo del Messico, nella costa atlantica meridionale, dal New Jersey alla Florida e in Alaska, ma ovviamente solo quando si comincerà sapremo quanto si potrà produrre. Oggi si dice qualche milione di barili al giorno, nel mondo se ne estraggono circa 80, gli Stati Uniti ne consumano tra i 20 e i 22, sono il principale consumatore al mondo di petrolio. L'impatto dunque non sarà drastico sul piano economico o dei numeri, ma aiuterà. A questo punto vedremo a novembre se la decisione avrà aiutato Obama anche sul piano politico, che poi era uno degli obiettivi, direi, centrali di questo suo annuncio. Bene, passiamo ad altro. Sabato la Apple Computer metterà in vendita l'iPad, nuovo gadget che consentirà di navigare su internet con uno strumento multifunzionale. Questa tavoletta elettronica consentirà di vedere film, di leggere libri, di ascoltare musica, di scrivere dei testi, di leggere soprattutto giornali, una manovra in concorrenza con Amazon e con il Kindle di Amazon. Amazon ha reagito annunciando accordi con Simon & Schuster, con Harper & Collins, due grandi editori americani, per consentirgli di vendere al prezzo che vogliono i libri online. Di fondo però resta che internet sarà sfruttata sempre di più in mille modi diversi, incluso quello per distribuire i giornali. E proprio su questo aspetto abbiamo una notizia. Nel 2010 per la prima volta ci sarà il sorpasso. La pubblicità su internet supererà quella sulla carta stampata. Abbiamo con lui in linea Mainardo De Nardis, amministratore delegato di OMD Worldwide, è la più grossa agenzia media del mondo, un'agenzia che compra spazi pubblicitari per conto di grosse multinazionali, fa parte del gruppo Omnicom, quotato in borsa a New York. A lui chiediamo se è vero, se sta registrando anche lui sul mercato questo sorpasso. Sicuramente è vero, negli Stati Uniti e anche in altri paesi d'Europa. Internet sta crescendo a ritmi che vanno dal 10 al 20% all'anno, questo è l'insieme del mondo digitale. Cosa vuol dire internet? Carta stampata, giornali, social networking? Internet è un mezzo molto allargato e in realtà non è un mezzo, è un insieme di opportunità dove un brand può creare delle connessioni con i suoi consumatori. Diciamo che nel mondo internet sono incluse le cose ovvie, i filmati, sono inclusi i banner, è inclusa tutta quella forma di pubblicità più tradizionale all'interno del mondo digitale. Insieme a questo sono inclusi anche tutti gli investimenti in search marketing, per esempio tutto quello che potete vedere quando fate una ricerca su Google, tutti gli investimenti nella colonna, diciamo, di destra quando si fanno delle ricerche. E la parte di search marketing all'incirca è un buon 25-30% del totale di tutti gli investimenti digitali. La terza grossa area del mondo digitale è, come diceva lei, il mondo del social media, quindi sia la parte di attività a pagamento, sia la parte di attività di PR, di word of mouth, di scambio di idee tra consumatori che possono avvenire su MySpace, Facebook o qualunque altro sistema di social media. E in questo contesto i giornali che fine fanno? Cioè, voglio dire, i giornali riusciranno in qualche modo a recuperare quello che hanno perduto di pubblicità nel contesto cartaceo e recuperarlo dal punto di vista internet? Direi che dipende, non è né un sì né un no. Come in tutto il mondo ci sono dei brand, anche nella carta stampata, che sono molto forti e altri che sono più deboli. La mia opinione personale è che i brand forti continueranno ad essere forti, hanno dei contenuti che il consumatore vuole, per cui il consumatore è disposto a seguirli e addirittura a pagarli certe volte. Per cui io mi immagino un mondo futuro, non nei prossimi 12 mesi, ma magari nei prossimi 5 anni, dove alcuni brand avranno la possibilità di incrementare i loro ricavi sotto forma sia di audience che di pubblicità. Altri purtroppo, che sono brand meno importanti, avranno più problemi perché i consumatori magari non li seguiranno all'interno del mondo digitale. E dunque finirà per prevalere magari l'informazione più specialistica, più specializzata? È sicuramente più facile in un'informazione specializzata, per esempio nel mondo della finanza, dello sport, della moda, tutto quello che ha un argomento molto specializzato. Però direi che ci sono anche dei grandi quotidiani o delle grandi riviste a titolo più generale che hanno delle ottime audience presenza anche nel mondo digitale. Guardiamo l'ultima che è entrata nel mondo digitale cercando di farsi pagare per i contenuti, non solamente con ricavi pubblicitari, che è il New York Times, che sta avendo una certa serie di successi. Può parlarci dei vostri clienti? Come si muovono? Cosa scelgono? Cosa fanno? Ma guardi, noi abbiamo più di 5.000 clienti in tutto il mondo, abbiamo 140 uffici in 90 paesi e gestiamo dalle più grandi multinazionali a dei piccoli clienti locali in altri paesi, quindi abbiamo una buona veduta sul mercato. Tra i nostri clienti abbiamo da Pepsi Cola a Renault, a Nissan, a Apple, a General Electric, a Barilla, a Vodafone, eccetera, eccetera, eccetera. Tanti grandi nomi mondiali. È difficile metterli tutti sulla stessa carrozza. Abbiamo dei clienti molto tecnici, tipo Intel, HP, per cui la parte digitale è assolutamente preponderante all'interno dei loro investimenti, molto superiore alle medie di mercato. Altri che hanno un target group più mirato, magari più anziano, magari di persone che hanno meno facilità con l'uso o del computer o di strumenti mobile e che quindi richiedono di minori investimenti nel digitale. Direi che si va da un minimo del 5, 6, 7% sul totale degli investimenti a livello mondiale a un massimo del 70-80% per altri clienti che invece decidono di investire la maggior parte dei loro investimenti nel mondo digitale. Un pronostico a 5 anni, diciamo, il giornale tradizionale in carta continuerà ad esistere? Secondo me, di nuovo un parere assolutamente personale, sì, continuerà ad esistere perché è un'abitudine, è una gioia, è un piacere che il consumatore richiede. Nello stesso modo continueranno ad esistere e a crescere molto velocemente le versioni digitali di questi quotidiani, perché in realtà è lo stesso brand che diffonde gli stessi contenuti attraverso una piattaforma diversa. Il consumatore è lo stesso, il contenuto è lo stesso, il brand che lo garantisce è lo stesso. Cambia solamente la carta e uno schermo, e le nuove tecnologie consentiranno di leggere i quotidiani elettronici in maniera più facile a gente che non ha bisogno della carta e che, come dicevo, vuole leggere gli stessi contenuti su una piattaforma tecnologica diversa. Bene, ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. I Public Enemy celebrano i 20 anni dall'uscita del loro terzo album Fear of a Black Planet. Con questo ventennale hanno annunciato il loro 71esimo tour, che durerà 7 mesi e verrà anche in Europa. Ascoltiamo il loro hit Brothers Gonna Work It Out, fratello in qualche modo funzionerà, tratto da Fear of a Black Planet. Da New York è tutto, o quasi, perché siamo all'inizio del mese e si dice a pinch and a punch for the first of the month. Lo si dice solo perché siamo al primo di aprile, o lo si dice sempre? Scrivetemi. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.